later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, nella fabbrica di polli, il servizio in camera è latitante da tempo immemorabile, Kappa e Drago anticipano i tempi. Drago, anonimato. Come anonimato? Anonimato, Drago. Fai finta di niente. Fai finta di niente, fai finta di niente. La nuova via è l'anonimato. Ah, fai finta di niente. Siamo di nuovo a rischio esplosione qui, come a fine anni 70. Veramente a fine anni 70 eravamo a rischio esplosioni. Questo è molto divertente. Drago, dico sul serio. Shh, hai capito? Fai finta di niente. Tu fai finta di niente. Bene, sì. Hai capito? Adesso sono tutti famosi. Per 15 minuti, 15 secondi, 15 giorni, non importa. La tendenza è quella. Aveva ragione Warhol. Warhol. Capito? Con tutta questa massa di umanità scadente che sgomita per emergere, la risposta del vero artista è quella dell'anonimato. Ah. È quello che hanno fatto negli anni 76 o giù di lì, Talking Heads, ti ricordi? Beh, certo. Non se ne poteva più di capigliature glam, vestiti da mostri spaziali. E quindi loro si sono presentati con le loro facce medie, i loro vestiti medi. Una rivoluzione. La rivoluzione della normalità. Quindi, Drago, per favore, la nuova via è l'anonimato. Vabbè, ma tu sei facilitato. Ti chiami K, che è una lettera, più anonimo di così. Fai finta di niente. Però sì, far finta di niente, ma non è facile. Tu sei troppo alto per passare inosservato. E poi sei sempre lì che parli, che sbraiti. Vabbè, tu invece sei uno di quelli silenziosi che non fanno mai polemica. No, ma infatti abbiamo un bel predicare l'anonimato. Ma se poi siamo degli istrionici simpaticoni, cosa ci vuoi fare? Cominciamo con evitare gel, creme abbronzanti, depilazione delle sopracciglia, colori eccessivi nei vestiti, tatuaggi, piercing, stivaloni, giubbotti di pelle. Sì, vabbè, come faccio a evitare di fare cose che non ho mai fatto? Mai usato il gel? Beh, gel sì, la gommina. Vedi, lascia perdere il gel. Depilazione delle sopracciglia? Ti sembro uno che si depila le sopracciglia? Il petto? Mai depilato. Le gambe? Ma scusa, ma perché dovrei depilarmi le gambe? Fai finta di niente. Dai, stai superando l'esame di mascolinità. Dai. Io rompo la macchina con la mia mascolinità. Quale macchina? È quella per misurare la mascolinità. Ma non si usa nessuna macchina. Ma era una battuta. Ma non si era capita. Ma tu non l'hai capita, è diverso. Ma se stai parlando con me, chi altri doveva capirla? Loro. Ma loro chi? Loro. Ascolta. Ma tu fai finta di niente. Anonimato, Drago. Appunto. Anonimato. La notte qui dentro è sempre la stessa. E l'ora non cambia, e non cambia la messa. Puoi fare pensieri di pura evasione, ma poi resta sempre la stessa scansione del tempo perduto qua giù. Si va, si parte, si atterra su Marte, si sogna la via più breve che c'è, si sta in disparte, si attende un segnale che ci può salvare dall'immobilità. La fabbrica di polli. Polastri? L'anonimato è un argomento interessante. Grazie, l'abbiamo tirato fuori noi, anzi io. E comunque certo, perché è il concetto più potente che possiamo elaborare contro il degenerare della fabbrica di polli. Il però, più potente sì, che esiste. Il più potente, ma non capisco. Una caratteristica dei polli in fabbrica è proprio quella di essere tutti uguali. Quindi che novità sarà mai questo nome? A parte i polli da macello, no? Che quelli poveretti nascono già destinati a morire presto. Tutti gli altri polli che vengono spediti in giro a fare proseliti non sono per niente anonimi. Sì, però Pollo, tu sei veramente anonimo al massimo, perché l'unica cosa che ti differenzia dagli animali da macello è il fatto che parli. Il becco. Vabbè, certo, eh. E che becco. Appunto. Sì, però non hai nemmeno un nome, questo è interessante, eh. Cioè, parli, hai una personalità molto forte, però non hai un nome. Che ne so, Mario, Pippo. Sì, Mario e Pippo Sant'Anastaso. Il mio nome è Pollo Sbattimento, che è una specie di nome indiano, no? Indiano con le piume, eh? Non indiano che muore di fame, eh? Sì, capito, sì, come la scuopelle di luna di Battiato, no? Chi? Ma niente, niente. Pollo Sbattimento è un non nome, e io sono un non pollo. Aiuto, adesso si mette a fare il filosofo. Un non pollo che sta in un non luogo. Dai, smettila di fare Carmelo Bene e torna in te stesso, dai, un non pollo. Il mio non nome fa di me... Ascoltate, no? Dai. Allora, il mio non nome fa di me una non persona. Quindi non parlatemi neanche che è inutile. È no? Non inutile. Perché le mie non orecchie non sentono più niente. Ecco, niente, adesso il pollo si è scollegato, tu e i tuoi discorsi sull'anonimato. Ma pensaci, Drago, spersonalizzare la propria vita, è fantastico, rinunciare al proprio ego in nome di un'assoluta trascendenza che confina con la rinuncia. Fantastico. Non ti sembrerebbe di fare finalmente la cosa giusta? Beh, sì, se fossi un mistico malato di mente, sì, ma sono un sano giovanotto di robusti appetiti. La risposta al nostro bisogno di anonimato sta in un testo misterioso, ma molto importante. L'imitazione di Cristo. Le nozioni di primo di classe. L'imitazione di Cristo, titolo originale De Imitazione Christi, è un caposaldo della mistica tardo-medievale e fu prodotto anonimamente in latino ecclesiastico a inizio di XV secolo. Contiene in stile incisivo e lapidario precetti per una intensa vita interiore. L'autore rivela profonda conoscenza di cuore umano e soprattutto intensa esperienza religiosa che si edifica in mortificazione. Si completa in pratica quotidiana di virtù cristiana e culmina nella unione con Cristo in slancio d'amore. Ecco, siamo a posto, K, un libro sull'automortificazione, ma proprio tu, proprio me. Ma non è un libro come gli altri. Non è un libro. Non c'è lo scrittore che straparla, capito, come negli altri libri. È un libro anonimo, che invita a diventare nulla. Sì, come i libri buddisti, la cosa sì, zen. Sì, però, ma senti che bella prosa. Non ti insuperbire, confessa piuttosto la tua ignoranza. Perché vuoi porti avanti ad altri, mentre se ne trovano molti più dotti di te e più esperti nei testi sacri. Se vuoi imparare e conoscere qualcosa in modo spiritualmente utile, cerca di essere ignorato e di essere considerato nulla. Bella roba, sembra il primo capitolo del manuale per diventare piemontesi. Ma basta, va. Che cosa succederà adesso? Che cosa diavolo è questa novità dell'anonimato? La solita baggianata che dura una puntata? Non perdetevi la risposta domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo indistinguibile allestimento de... La... Polli produce, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non muoce quasi mai. La fabbrica di polli. Un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it. barlumen.com. This program is on the air every night. at this anymore. Good night, ladies and gentlemen. Good night.